dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E bentornati come ogni mercoledì dagli studi di Radio Panorama. Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno appunto presentano L'Onda in Onda, quindi bentornati sempre qui con noi dalle 18.30 alle 20.30. Ci imposseremo delle frequenze di Radio Panorama per lanciare le nostre boiate in questo squallido postribolo radiofonico il quale vi terrà compagnia e potrete ascoltarlo tramite i seguenti contatti: radiopanorama.info, facebook.com/L'Onda in Onda, per la nostra pagina Facebook alla quale vi invitiamo a mettere mi piace e a scriverci in diretta, e poi twitter.com/onda in onda, scusate, con l'hashtag onda in onda appunto, se volete commentare la puntata di oggi, e poi sms al 380 76 90 204, e poi 107 106 e 4 104 e 1, le nostre frequenze per chi vuole ascoltarci. Inoltre, per chi vuole itinerare col suo cellulare e non perdere un minuto di quello che saranno le nostre boiate in questo due ore di dell'ora dell'aperitivo, vi invitiamo a scaricare l'applicazione TuneIn in qualsiasi smartphone voi abbiate, con Android o un iPhone o il Windows Phone o quello che volete, e ascoltare Radio Panorama mentre camminate, siete a prendervi in giro l'aperitivo con i vostri amici nei bar brutti che non vogliono mettere Radio Panorama, oppure non si prende, insomma fate un po' voi, insomma ascoltateci in qualsiasi maniera perché ne vale veramente la pena. Infatti oggi avremo con noi in intervista Capone dei Bung the Bunked, grandissimo gruppo che ha suonato con un sacco di artisti. Io ricordo l'esibizione bellissima che hanno fatto a Sanremo insieme a Daniele Silvestri cantando La Paranza, e vi invito ad ascoltare queste interviste. Poi Angelo Licata, regista di Dark Resurrection, un bellissimo fan movie su Star Wars, ci parlerà del secondo volume che è stato presentato, ancora in fase di produzione, si cercano tra l'altro produttori, e la notizia da commentare dell'acquisto della Lucasfilm da parte della Disney, con gli sviluppi dei nuovi episodi di Star Wars, quindi le nuove generazioni che si avvicineranno a questi film. E poi verrà un ospite termitana, Laura Muriele, che ci parlerà dello stato del canile municipale. Ha chiesto di essere intervistata, e noi come tutti insomma diamo voce a chiunque, e siamo lieti di averla qui con noi, l'aspettiamo più tardi. E infine la nostra rassegna dei film brutti oggi non potrà mancare, visto che la settimana scorsa Marco era impegnato, arriva con una doppia razione di film brutti, quindi vi consiglio di rimanere in onda con noi, ma subito dopo la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, chiodo, chiappiamo, se va, chiamare. 1, 2, 3, 4. Noi siamo i giovani. Questo applauso va a voi che ogni settimana ci ascoltate con tanta costanza. Costanza invece non ci ascolta perché ha da fare. Va bene, questa battuta l'avevo già fatta. Ciao Bumbo, come stai? Bene, bene, tu come stai? Io benissimo. Antonio, per chi ci segue, per la prima volta è il mio co-conduttore, ma non ci sarà perché... Ci sarà, ma nel senso arriverà dopo, perché purtroppo è bloccato a causa di un incidente che non ha fatto lui. Nel senso, la strada è bloccata a causa dell'incidente che c'è stato all'altezza di Villa Abate. Lui stava tornando da Palermo, quindi va insomma... Va bene, va bene. Vabbè, insomma, è a fare, ci vediamo, è a fare cose sporchi, diciamolo, a vendere droga. Non so. Come vendere droga? Vabbè, no, scherziamo. Niente, quindi l'aspetteremo più tardi nel corso della puntata. Ricordiamo che gli ospiti di oggi avremo appunto Angelo Licata, del regista di appunto Dark Resurrection, questo fan movie di Star Wars. Poi avremo Maurizio Capone di Bung the Bunked e Laura Muriella, che ci verrà a parlare del canile municipale. Bene, allora, prima di iniziare io vorrei ricordare che la nostra bellissima sigla, perché ogni volta che l'ascolto poi non lo ricordo mai, è stata fatta con l'omaggio vero e proprio fisico di Piotta, che ha dedicato questa parte della sigla telefonico, sì sì sì, nel senso fisico, nel senso che era veramente lui all'onda in onda, a noi dell'onda in onda. E è bello perché no, dice che siamo l'esercito del surf. In effetti un po' l'esercito del surf lo siamo stati la settimana scorsa, quando c'è stata l'alluvione qui a Termini. Praticamente è stata la città che ha avuto più danni rispetto a tutte le altre della provincia, e diciamo si poteva uscire soltanto effettivamente col surf o le canoe, quindi insomma è stata una bella settimana. Ci siamo ripresi, purtroppo Positive Vibration la settimana scorsa non ha potuto trasmettere proprio a causa del temporale, quindi vi invitiamo giovedì prossimo a seguire la puntata di Positive Vibration per riprendere i contatti con Claudio e Riccardo, che fanno un programma veramente veramente bello. Bene, allora io direi che invece di dare qualche notizia partiamo subito con il primo pezzo e ci risentiamo subito dopo. Torniamo in diretta con le nostre notizie più strane del mondo. Fa sesso con lo scheletro, si masturbava con le ossa, l'accusa di necrofilia, una donna di Gothenburg. Gothenburg, hai visto come l'ho detto bene? Gothenburg. Mamma mia. Avevano l'appartamento 6 teschi, una colonna vertebrale e un vasto campionario di ossa che utilizzava per riti sessuali. È stata arrestata. Disturba la pace dei morti, è quanto ha dichiarato il procuratore svedese che sta esaminando il caso della donna che amava far sesso con resti di ossa umane. In Svezia la violazione dell'eterno riposo è punibile con 2 anni di detenzione. Lo sfizio della 37enne va ben oltre la necrofilia e si serve della passione ridotta ai minimi termini. Quel che resta da scoprire adesso è la provenienza delle ossa e capire come abbia ottenuto il codice di accesso a un obitorio. Sono cose che piacciono anche a te, vero Boom? Io so sì, che da tu... morire, io adoro i teschi. Sì, sì, tu proprio lo so che la notte non vedi ho l'ora. Ho tante falangette messe, sì, sul, esatto, comodino. Le prove delle pratiche sessuali sono su 2 CD dal titolo La mia necrofilia e la mia prima volta. Diciamo che la donna ha fatto in modo di non farsi beccare. Contro la donna c'è una documentazione che attesta una collezione di foto di un obitorio. Il materiale è stato rinvenuto in un'area segreta della casa, dove c'era anche un trapano e un sacco per i cadaveri. Quindi insomma una donna molto tranquilla. Non risultano prove sul furto dei corpi, ma ne sapremo di più sicuramente su questa notizia dopo il prossimo pezzo. Clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine, they say. Gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, I'll teenage you scared the living shit out of me. They could care less as long as I wanna bleed. So talk in your clothes. My Chemical Romance con Teenagers. Allora, ritorniamo alla nostra vicenda della donna che si masturbava con le ossa di cadavere. Niente, praticamente la donna è stata arrestata, non risultano prove sul furto dei cadaveri, insomma, dalle tombe, secondo quanto rivela l'agenzia di stampa TT, che insomma è famosa, TT, esatto. È stata arrestata martedì e ha ammesso di possedere le ossa che il materiale, sia le ossa che il materiale, ma rigetta ogni accusa, scrive il Der Spiegel, di cui ci eravamo già occupati, se ricordi, col Der Spiegel, diciamo che abbiamo questa stampa internazionale che ci segue, quando ci siamo occupati del caso dell'architetto che non aveva mai costruito una casa, abbiamo intervistato. Ah sì, ricordi? Sì. È grande lui, grande, grande, grande. Chissà che fine ha fatto, già ha scritto, mandatevi l'intervista, per favore, vero, mi serve, sì, sì. Ma, vedremo come andrà a finire anche questa vicenda, un giorno lo sentiremo nuovamente. Intanto ricordiamo ai nostri gentili ascoltatori che Antonio, il mio co-conduttore, sta per arrivare perché, insomma, ha superato, a quanto pare, la parte dell'incidente, la parte incidentata dell'incidente durante il percorso e quindi sta per arrivare in radio, quindi restate con noi. Ridiamo i contatti per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso e volesse scriverci e mettersi in contatto con noi, radiopanorama.info o.eu, poi facebook.com/londainonda, infine 380 7690 204 per la messaggistica SMS, e poi per chi vuole vederci e ascoltarci in streaming basta andare appunto sul sito di Radio Panorama detto poc'anzi, oppure twitter.com/ondainonda per chi vuole scriverci e commentare la puntata insieme a noi su Twitter. Ricordiamo che dopo il prossimo pezzo sarà con noi in intervista, o meglio verso le 7 sarà con noi in intervista Angelo Licata, che è il regista di un fan movie su Star Wars, su Guerre Stellari, che vi consiglio di andare a vedere sul sito Dark Resurrection. Molto bello, è composto attualmente in due volumi, il volume 0 e il volume 1. Il volume 0 tra l'altro è stato fatto dopo il volume 1, fatto con pochissimi soldi, un budget veramente limitatissimo, a cui hanno partecipato però degli attori molto famosi, che io vi invito ad andare a guardare. Nel film si sono prestati tra l'altro gratuitamente a questo fan movie, perché insomma fan della saga hanno deciso di accettare questo ruolo, e devo dirvi che il fan movie, quindi sì, il film è venuto veramente molto bene, è girato interamente in Italia in uno studio con il telone verde, gli effetti speciali sono qualcosa di allucinante per un film con un budget così limitato, la storia è molto molto bella e posso assicurarvi che l'intervista sarà qualcosa di molto interessante, soprattutto per l'argomento di cui si parlerà successivamente, ovvero l'acquisto da parte della Disney della Lucasfilm. Chi meglio di Angelo Licata, che ha fatto un film proprio su Star Wars, apprezzato tra l'altro da George Lucas in persona, che ha definito Dark Resurrection truly amazing. Insomma, può spiegarcelo. Va bene, allora continuiamo intanto con il nostro programma, ma vi ascoltate prima gli AC/DC. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, th E CDC con Thunderstruck, bellissimo pezzo che dà un sacco di cariche, quindi se eravate in macchina e vi siete ammazzati, noi non ci possiamo fare niente, vi compatiamo e siamo con voi, tra l'altro. Stasera proprio siamo partiti. Siamo partiti alla grande. Allora, tempo di elezioni, tempo di campagna elettorale più che altro, anche perché si tengono le primarie del PD. Voi per chi votate fatecelo sapere con un sms al 380-7690-204, anche anonimo, oppure su Twitter, la pagina twitter.com/ondainonda, o sulla nostra pagina Facebook. Bene, la cosa interessante è invece che il PDL corre ai ripari e quindi vuole fare le primarie del PDL. Il fatto è che sono 20 candidati, quindi diciamo la scelta è un pochettino difficile dopo Berlusconi, scegliere quale sarà il candidato migliore, a parte il segretario Alfano che sembra essere quello più favorito. Ma non ce n'è come lui. Ma la cosa interessante, cari ascoltatori, è che lui, proprio lui, sarà qui. Lui sarà qui fra poco. No, non ci credo. Lui sarà qui fra poco perché vuole dire la sua, vuole finalmente dire la verità su quel che è l'affare Spinelli. Che non è quello che pensate voi. L'affare Spinelli. Esatto, bravo. Il nostro pubblico qui in sala. Fate un applauso al nostro pubblico. Fatevi un applauso da soli, soprattutto. Bravo, grazie, grazie. Allora, no, dicevo. L'affare Spinelli. Cos'è successo? Il ragioniere, no, di Berlusconi è stato rapito da una banda di 6 persone. Hanno irrotto in casa e l'hanno sequestrato per un po' di ore. Finché hanno costretto il ragioniere a chiamare Berlusconi per trattare sul lodo Mondadori. Dice che avevano dei documenti e potevano ribaltare la sentenza sul lodo Mondadori, il processo che poi con cui Berlusconi è stato condannato, e alla fine niente, se ne sono andati, ma si vocifera che sia stato pagato un riscatto di 8 milioni di euro per rilasciare Spinelli. E quindi insomma Berlusconi vuol dire la sua, no, perché questo è un caso politico molto forte, dietro ci sono tanti retroscena che non si conoscono. Si vocifera che nella USB proposta a Spinelli da questi sequestratori ci fosse un video in cui Fini chiedeva ai magistrati che si occupano del processo, che si occupavano appunto del processo della Mondadori, di mettere in difficoltà Berlusconi. Ma non è nello stile di Fini, replica Ghedini allo stesso Spinelli, quindi è un mistero fitto. E chi meglio di lui, di Berlusconi in persona, può spiegarcelo? Abbiamo avuto insomma l'onore di averlo qui altre volte, verrà proprio qui in puntata. L'abbiamo chiamato apposta. Sì, l'abbiamo chiamato, ma lui stesso ha detto: ragazzi, io voglio spiegarlo e voi siete l'unico programma che fa parlare, quindi noi lo invitiamo, l'abbiamo invitato più volte, verrà qui fra poco e sicuramente ne sapremo di più su questa vicenda molto, diciamo, molto spinosa. Bene, allora io direi di lanciare il prossimo pezzo e vi invitiamo a rimanere subito dopo, che ci sarà la pubblicità con l'intervista ad Angelo Licata. We'll be right back.

E siete sempre collegati con Radio Panorama, questa è l'Onda in Onda. È tornato il mio co-conduttore Antonio, che vedete si muove in maniera inconsulta. Sì, ma perché ancora sono scioccato dall'incidente, cioè pazzesco. Un incidente così incredibile che non c'è stato. Addirittura. Io ero convinto che ci fosse un incidente. In realtà era un... Solo coda. Solo infatti coda. Ridevamo perché tu in macchina, cioè io in macchina ti ascoltavo e tu hai comunicato una notizia assolutamente falsa. Vabbè, io al momento della notizia pensavo ci fosse un incidente. Ovviamente io attendo ora la querela di Onda Verde. Sì, certo, ovviamente. Allora, come vi abbiamo annunciato nell'anteprima, è con noi Angelo Licata, regista di Dark Resurrection. Benvenuto Angelo, ciao. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Tutto bene? Come stai? Bene, non c'è male. Allora, Angelo, parliamo un attimo di questo tuo progetto Dark Resurrection. So che, vabbè, le interviste tue neanche si contano più, si è occupato Panorama e tanti altri giornali di questo fan movie su Star Wars. Ma dici un attimo com'è nata l'idea e dove siete arrivati, tra l'altro? Noi abbiamo iniziato dal 2004 partendo da un sogno, quello di realizzare qualcosa che in Italia non veniva fatto, cioè la fantascienza, da totali amatori. In maniera all'inizio amatoriale abbiamo iniziato a fare Dark Resurrection volume 1, pensando che non uscisse dalla Liguria, che restasse una cosa insomma fra amici. Invece quando misimo online nel 2007 il volume 1 di Dark Resurrection venne scaricato milioni di volte. E da lì insomma è nato qualcosa di più grande e tuttora stiamo proseguendo cercando di completare l'opera. Beh, ricordiamo tra l'altro che Dark Resurrection è un fan movie di Star Wars completamente gratuito, quindi chiunque può vederlo gratuitamente andando nel sito darkresurrection.com, e so che hanno partecipato tra l'altro attori molto famosi come Sergio Muniz, che si è proposto, se non sbaglio gratuitamente, avevo letto una volta in un'intervista. Sì, assolutamente gratuitamente, tutti gli attori che hanno partecipato al film, compresa anche la troupe, insomma, nessuno è stato pagato, lo hanno tutti fatto per il piacere di fare qualcosa di inedito in Italia. E allora, Sergio in particolare è stato carinissimo, perché quando vide il trailer online riuscì a avere il mio numero tramite un amico comune e mi disse: guarda, io vengo assolutamente a fare il tuo film. Lui era appena uscito dall'Isola dei Famosi, dove insomma era molto molto conosciuto e il suo cachet era piuttosto alto. Io mi subito le mani avanti dicendo: guarda che insomma noi non abbiamo soldi da darti, perché questo è un progetto gratuito e free, insomma, per la rete, per i fan. Lui mi dice: no, non c'è problema, non ti preoccupare, se non ci sono soldi io dormo anche nel mio furgoncino, vengo col furgone. Io ho detto: no, aspetta, ma che non ti facciamo neanche dormire in un posto carino, c'è il posto da dormire, insomma non ti possiamo pagare, ecco, tutto qui. Fu una bella esperienza, lui si divertì molto e continua a seguirci, ad aiutarci nelle nostre cose. E gli attori famosi, tra l'altro conosciuti soprattutto nel grande schermo, nel volume 0 c'è anche Nina Seneca. Il volume 0 è il prequel, però realizzato successivamente al volume 1. Quindi diciamo attori famosi ce ne sono veramente tanti, quindi consiglio a chi ancora non abbia visto Dark Resurrection di andarlo a vedere nel sito. E voi state preparando però adesso il volume 2. Come procede la preparazione di questo volume 2? Beh, il volume 2, lo script è pronto, lo stiamo revisionando, però abbiamo bisogno di fondi. Tu ancora non l'hai detto, però praticamente sì, noi siamo sì, no, volevo farti parlare a te, poi il volume 1 è stato autoprodotto ed è costato pochissimo, 7.000 euro, lo siamo pagato io e Davide Bigazzi, che all'epoca eravamo i due produttori del film. Il volume 0 è stato fatto con un crowdfunding casareccio, diciamo, nel senso che ancora non esistevano le piattaforme come ci sono adesso, tipo Kickstarter, Indiegogo, eccetera. Noi ce lo siamo inventato il crowdfunding e abbiamo raccolto 27.000 euro tramite una associazione culturale. Chiunque poteva diventare produttore del film e apparire nei titoli di coda con una somma minima che era 30 euro per quanto riguarda il volume 0. E con quei soldi abbiamo realizzato appunto questo film, che potete vedere online gratuitamente, che sta riscuotendo grande successo. Già si è avvicinato adesso da poco al 500.000 di visite. Il volume 1, il milione l'ha superato da tempo, è stato rimesso online, eccetera. E per il volume 2 abbiamo alzato la posta, anche perché costerà molto di più farlo. Dovranno per esempio essere costruiti circa 40 costumi diversi, e voi sapete quanto costa fare un solo costume, quindi figuratevi cosa può costare un film semplicemente di attrezzature, non di lavoro umano, perché chi ci aiuta, gli attori e noi stessi, non veniamo pagati, insomma, non vogliamo farci lucro. E per chi veramente vuole fare del buon cinema, vuole contribuire al buon cinema, noi invitiamo gli ascoltatori, se vogliono contribuire appunto sul sito Dark Resurrection potete diventare i produttori associati o produttori esecutivi. Produttori associati. Associati del volume 2. Che insomma, se vedete i primi due, chi non li ha visti, figuratevi, sono già belli, figuratevi il secondo volume, sarà qualcosa sicuramente eccezionale. Angelo, io volevo farti una domanda, ma allora fare cinema in Italia non è complicato, soprattutto fare cinema di fantascienza? Dobbiamo sempre confinarci nei film? Fare cinema non è complicato, è complicato farli vedere i film, è complicato distribuirli e quelli sono i veri costi. Guarda, io ricordo un aneddoto, sicuramente lo conoscerai anche tu, del film L'ultimo Capodanno. Non so se L'ultimo Capodanno è un film praticamente comico, una commedia comica, tra l'altro con Monica Bellucci. Metto la mia ignoranza. L'ultimo Capodanno è una commedia dove c'è anche Monica Bellucci, però il film è stato distribuito con un trailer che appariva un film completamente drammatico, l'urlo della Bellucci, era qualcosa di sembrava veramente un film tristissimo, sbagliatissimo, quindi. E il regista l'ha ritirato dal commercio, quindi certo. Dico anche, in effetti anche la distribuzione è complicata per i film italiani, forse insomma prende... Il motivo per cui, ti posso spiegare in maniera molto semplice, il motivo per cui non vengono fatti film di fantascienza in Italia, è una questione matematica proprio, cioè fare un film di fantascienza non può costare 1 milione di euro, a meno che non hai l'idea di ambientarlo in un'unica stanza, ok? Alcuni ogni tanto, oppure di farlo in maniera tipo footage funding come Dark Resurrection. Come dici? Dark Resurrection, se non sbaglio, è stato fatto dentro una stanza, praticamente dentro una palestra. Dark Resurrection è una cosa diversa, nel senso che nessuno è stato pagato, perché i veri costi in un film sono le persone, il lavoro umano. Se tu dai stipendio per due anni a 500 persone, vengono fuori delle cifre esorbitanti. Sì, esatto. Dark Resurrection ha potuto avere dei costi contenuti perché la gente partecipa per il piacere di far vedere al mondo che anche noi sappiamo fare film di fantascienza di questo livello. E magari far svegliare qualche produttore. Il problema è che finché i produttori non capiranno che devono produrre non per l'Italia, ma per il mondo, e quindi investire qualcosa in più, superare i budget che si usano adesso per i film comici, le commedie o i drammatici, ma poi poter vendere in tutto il mondo e quindi aumentare anche i guadagni, trasformare quello che attualmente è un'industria che è in deficit. Che non sta funzionando, perché facciamo film soltanto per il nostro territorio interno. Sì, e soprattutto magari usare il web come hai fatto tu, che sei stato diciamo pioniere di questa tecnica. Il web è una cosa totalmente a parte ed ha una cosa bellissima, il web, che finalmente è meritocratico. Sì, sì, esatto. Se tu fai una cosa brutta, non te la vede nessuno. Ci hanno provato qualche produttore, ci ha provato con YouTubers The Series, non so se hai seguito la vicenda, sono stati inondati di polemiche, perché è una cosa terrificante, Fiorello ci ha messo la faccia e anche lui è stato inondato di polemiche, quindi diciamo, ci hanno provato. Ci sono tanti esempi di web series bellissime, indipendenti, e che meritano di essere viste, a parte YouTubers, voglio dire. Io purtroppo non ho visto neanche una puntata, ma conosco un ragazzo che ci ha lavorato. Però vi consiglio per esempio Stack di Ivan Silvestrini, che è una web series bellissima, totalmente gratuita e secondo me di altissimo livello. Ce ne sono molte altre attualmente, ce n'è una in produzione che si chiama Forse Sono Io, con Vincenzo Alfieri, che ho visto delle scene ed è stupefacente. La vedremo, probabilmente l'intervisteremo anche, come abbiamo fatto con gli altri produttori di web series. Ascolta, ritornando un attimo all'universo Star Wars, è di recente la notizia che la Disney ha acquistato la Lucasfilm. Tu come la vedi? Terremoto è stata questa notizia, che ha dilagato 4 miliardi. 4 miliardi e mezzo. 4 miliardi e mezzo, sì, no, non di dollari, non però sono di euro un po' meno, dai. Tu come la vedi questa notizia? Pensi che la serie continuerà con lo stesso farzo del... Guarda, io penso che sia una cosa estremamente positiva per la saga, perché Lucas è stanco, aveva finito il filone creativo, non riusciva più a rendere il misticismo bene come ha fatto nella vecchia serie. Alcuni hanno apprezzato i nuovi episodi, io personalmente no, quindi sono legato alla vecchia trilogia. Invece la Disney attualmente sta sfornando film di un certo livello, veramente belli. Guardava per esempio The Avengers, Iron Man, soprattutto il primo, sì, sì. Thor, sono film molto belli, anche Capitan America non è affatto male, insomma, secondo me George Lucas, che fra l'altro non so se lo sapete, ma ha devoluto l'intera beneficenza e quindi non gli si può più dire nulla, poverello, dopo che ha fatto un gesto del genere, ha dato in mano suo figlio all'azienda più importante e che aveva più possibilità di non far morire quello che lui ha creato. Vabbè, approvo totalmente la scelta. Dobbiamo dire che George Lucas ci ha provato più volte. Ormai sa, ogni tecnica nuova che esce, George Lucas si rimette in gioco Star Wars. Ti volevo chiedere una piccola curiosità. Beh, solamente non sarà più lui a farlo, però. Beh, sì. Una piccola curiosità e poi concludiamo. Ma secondo te c'è la possibilità che l'attore principale, no, che ha fatto il protagonista nelle prime saghe di Star Wars, facendo Mark Hamill, Luke Skywalker. Venga usato una tecnica di ringiovanimento? Sì, è stato contattato ed è stato contratto, che sappia. Sì, no, ma dico, secondo te è possibile una tecnica di ringiovanimento come ha usato la Disney con Jeff Bridges in Tron? Ma io credo che ragionando in termini commerciali, se fossi io a dover fare la nuova trilogia, io vorrei un vecchio maestro Jedi, Luke Skywalker, molto vecchio, sul punto di trapassare addirittura, e sul punto di dare diciamo lo scettro e la sua spada laser a un erede per accattivare una nuova generazione di fan. Quindi tu vedresti l'inizio del settimo episodio come l'inizio del quarto? Ma io vedrei, sì, una nuova generazione di eroi e sperando che il misticismo sia forte come fu all'epoca. Insomma, io credo che vada tutto bene. Hanno scelto degli sceneggiatori molto bravi. Fra l'altro per l'episodio 8 e 9 gli sceneggiatori sono quelli di L'Impero colpisce ancora, che in assoluto è il film scritto meglio della saga, insomma. Va bene, Angelo, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, cambia niente, dipende quale ti piace di più. Il mio co-conduttore qui sta scrivendo tutte le boiate che sono riuscito a dire. Sì, è giusto che lui le sappia: Farzo, Faceli e Lupa, perché lui purtroppo si emoziona e quindi inizia a inventare neologismi. Sì, sono parole nuove che sicuramente verranno usate nei prossimi film. Angelo, andrai sicuramente lontano, io sono sicuro che almeno per un altro episodio di Star Wars, secondo me sarai contattato come consulente, quello che vuoi. Ti facciamo veramente un grosso in bocca al lupo, invitiamo tutti quanti a scaricare Dark Resurrection e a contribuire magari alla nascita del volume 2, quindi guardatelo e insomma fateci sapere poi cosa ne pensate. Grazie per l'intervista, Angelo, e buona fortuna. Grazie a voi, ciao. Buona serata, ciao a tutti. Adesso ci ascoltiamo Van Morrison con Brown Eyed Girl. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened the Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. The other day, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha-la-la? E siamo tornati qui in diretta, finalmente posso salutarti per bene. Intervista molto interessante, lunga, con la nascita di neologismi quali farzo, faceli e lupa. Sono tutte parole che userà Vara Menier nel prossimo programma. Aspetta, è folemiche. Folemiche, è folemiche. Vero, non era faceli, era folemiche. Non era faceli. No. Faceli l'hai detto. Detto sia folemiche che faceli. Le sto segnando tutte. Le polemiche di Fiorello sono ovviamente folemiche. Vero, ha detto anche lui, sono messo a folemiche. La serie ha fatto faceli. Sì, io questa intervista, ricordiamo tra l'altro che saremo in replica dalla mezzanotte. Siamo già in replica. Già, è vero, perché noi andiamo anche nel futuro. Certo, però chi ci sta ascoltando adesso vuole, come dire, farsi del male anche lui, come con i film brutti, quindi autopunirsi, allora ci può riascoltare stanotte alla mezzanotte. Al momento invece chi ci ascolta già in replica sono, che ore sono? Luna, quasi luna. E se non ci fosse luna, allora ne inventerei subito una luna per te. Abbiamo citato. Non eri. Vabbè, sì, è proprio lui. Invece, parlando dell'altro lui, di cui abbiamo parlato prima. Intendi Luciano? No, intendo Berlusconi. Intendi Berlusconi. È voluto intervenire velocemente qui nella nostra puntata per dire la verità sul caso Spinelli. Antonio, lo studio è piccolo, ti invito a farci da parte perché sta venendo. Tra l'altro, è con la scorta. Ma io lavoro con voi. È con la scorta. No, non esce. Forse, no, ho capito. Lo chiamiamo. Lo chiamiamo al telefono. Non esce. Se n'è andato. Visto l'agente della scorta, ha detto: no, guarda, lui non vuole entrare. Scusa, lo chiamiamo al telefono. No, un attimo, il regista non ce lo sa dire. È al telefono o è qui fuori? Ci tiene sulle spine. Io credo che sia al telefono, dobbiamo chiamarlo noi. Perché. Vabbè, lo chiamiamo noi. Dai. Lo chiamiamo noi, vediamo se riusciamo a spiegare. Ma è qua fuori, faccio io non capisco. Io il numero? No, credo che riusciamo a chiamarlo. Vediamo se. Ok, è già libero. Ah. Cioè, prima dal libero, poi si chiama e dà di nuovo libero. Eccolo. Ma poi è qui fuori, non lo capisco. Questa ma è la sembra la suoneria. Sembra Jurassic Park. Senti inizio. Sì. Jurassic Park. Na. Ma vediamo, pronto. Pronto? Cosa? Pronto, presidente. Siamo Gesù. Pronto, presidente. Settima su qua. Lo so, presidente, perché è qui fuori e non è voluto entrare in studio, ma l'abbiamo dovuta chiamare? Stavo manifestando, crimiaccio. Ma per cosa? Per la riapertura di Strada Verdura. Ma lei conosce Strada Verdura? Ovviamente. Termini Merese. Sì, venivo a Termini già tanti anni. Ho capito. A fare che, presidente? Non ha perché... presente le famose sette fatiche dalle quali mi sono riposato? Ma quello era Ercole. No, quello era mio fratello, che si è spacciato per l'autore. Ero io in realtà, crimiaccio. Ah, addirittura, presidente. Senta, ma lei voleva dire la verità sul caso Spinelli. Cos'è successo? Perché abbiamo letto, no, che è stato sequestrato il suo ragioniere. Assolutamente, poi è stato... sì, povero Cristo. L'hanno trattato come una capra. Ma mi scusi, che cos'è questa quello capra, è per chiamare le capre. Ne parleremo anche di un'altra più tardi, Cribio. Presidente, fuori ci sono le capre, non sì, certo, ora vi faccio entrare. Io sono un presidente, operaio. No, la porta è chiusa, presidente, ormai lei è rimasto fuori. Senta, mi dica la verità sul caso Spinelli. Qual è? Cioè, cos'è successo realmente quella notte? Quella notte è stata una gran notte, crimiaccio. Sì, vabbè, immagino, presidente, ma dico, sarà stato molto, molto in apprensione per il suo certo, ragioniere. Trattare così una persona che viene dall'estero, il nipote di uno importante. Ma chi, presidente, senta questa scusa. Anche lui. No. Lui è fratello di Ruby. Non è possibile, presidente. Assolutamente ma sì. Ma no, ma Spinelli non Gaetano è Mubarak. Ma non è vero. Detto Spinelli per dei suoi passati a L'Avana. Ma come, presidente? Ma senta, ma lei non ha per caso fatto un'apertura, liberalizzate gli Spinelli, in realtà poi qualcuno, non so, qualche malpensante ha sentito nelle intercettazioni liberate Spinelli e quindi lei è coinvolto. Potrebbe anche essere. Le ho dato appena un alibi, diciamo, presidente. Guarda, sai che lo utilizzerò contro di lei? Ma come contro di me? Ma io dirò non sono che indagato. È stato lei. Ma a rapire Spinelli? Assolutamente ma lei non ci sì. ha presi quelli che hanno rapito Spinelli? Hanno preso lui e anche la USB, cioè loro, e anche la USB che conteneva un video. Ah, che il tutti... video di Fini. No, il video di Sara Tommasi. Ma come di Sara Tommasi? Che poteva essere usato contro di lui per la candidatura di Marra alle primarie del PDL, figa. Ma come? Presidente, contro di lei magari? Parla di se stesso anche in terza persona. Assolutamente sì. Quando si parla dell'uno e trino... Scilipoti, presidente. Scilipoti? Sì, e poi la... Parente di Scipione africano. No, Scilipoti, no, si ricorda lei... Ma quello che ha cambiato, il quello cambia che... bandiera, sì, scrimiaccio. Ma verso di lei, tra l'altro, le ha fatto... Assolutamente sì, ha tirato quindi acqua al mio mulino. Quindi lei mi sta dicendo, presidente, facciamo un attimo di chiarezza, che lei non c'entra nulla con il rapimento di Spinelli e che nella USB... Mi sento male, non sento l'inno. No, presidente, sta ripartendo. Non mi sono ripreso. È il suo cellulare. Sono che... cose che si scarica. Vabbè. O l'iPhone 6. Addirittura sì, non, sì. Non c'è neanche prima sì. di morire il Jobs l'ha fatto per me. Ma come? Va, sì, vabbè sì. Non vogliamo saperlo. Wow. Presidente, questo era Jobs. Steve Jobs nell'aldilà sì. Sì. No. Bella vocina, la risentiamo. Vai Steve. Wow. Grandissimo, yeah. Senta, no, quindi lei mi sta dicendo a chiusura che lei non c'entra nulla con il rapimento di Spinelli e che nella USB non c'era il video di Fini che diceva ai magistrati di mettere... Ma di Sara Tommasi, quella gran donna! Come quella gran donna? Vabbè, mi dicono che donna è un sinonimo di... No, no, presidente, questo nel suo, insomma, nella sua era che ha lanciato il berlusconismo. Ma dico, quindi c'era il sì, video di Sara sì, Tommasi per mettere in difficoltà sì, Marra sì, alle primarie sì, del PDL. Ma lei di no di più, c'è anche un altro che viene con noi alle primarie. Beh, lo sappiamo, ma Vittorio, chi è? Vittorio, vieni qua, Vittorio. Perché c'è il campanaccio? Capra, capra, capra, capra, ignorante, capra, capra. Presidente, lui è sempre così era, molto posato. Era Vittorio, ma diceva capra a lei. No, ma lei lo dice a tutti, ma anche a sua a madre. Termini, anche, sì, sì, anche a sua madre, lui dice capra, un modo sai, carino. Sai che noi l'abbiamo intervistato? Vittorio sì, assolutamente, Scarvi. Ma guardi, io le dirò di più. Oggi mi do da solo il diritto e l'onore, visto che io sono il re delle televisioni, di lanciare anche in questa radio la pubblicità. Vai! She's so nice and sharp, one get me out of control. Yes, she wanna know how long can me stand before me fall. She make my mind get mad and me heart now go bad. I hear me tell to the baby them. She's so nice, who can say no? We spend a little time and I would never let her go. I look in her heart and she open all the doors. Cause it a go so I'm no insecure. But she crying for a while cause she miss me so. And she no want nobody else but me a little more. Before me fall, she make my mind get mad and my heart now go bad. I hear me tell to the woman them. She's so nice and sharp, one get me out of control. Yeah, she wanna know how long can me stand before me fall. She make my mind get mad and my heart now go bad. I hear me tell to the baby them. Who she call me, who she want me, who she want me at all. I never take her for granted cause one day she could have put it down. All the girl is smell like a rose but she doesn't need no pose. She blew me six rounds and take me for hours a day into a world. She smile like a rose and she sing like the birds. Man know her things are gone when she gonna say those words. Every breath we come at the mouth I go mash me down. Make me jump and twist till me really touch the ground. Is it up and up and up and up and up and up and up. No contest, no race, ain't no competition. All the woman try to do like it but she stylist up yo. When she walk up on the street every man I say whoa. She swim like the fishes and she fly like a wolf. This girl she drive me crazy like no woman before. Well me think one good me water control. Yeah, she wanna know how long can me stand before me fall. She make my mind get mad and my heart now go mad. I will me tell to the woman them. She's so nice and sharp. One good me water control. Yeah, she wanna know how long can me stand before me fall. She make my mind get mad and my heart now go mad. I will me tell to the baby them. Cha cha cha cha, call me say cha cha, I don't see. If we die by your side, we must have a cha I don't see. In and out eyes, in and out room, in and out back. Downstairs. Love and them will pass them from your face to your feet. Them go through all the rivers and go down into the sea. Let me see you smiling, yes, see indeed. In and out trend, in and out style, in and out standard, in and out file, in and out fashion with the generation for a long time. Not even a million like can this grab when I find when she deep on my mind. She make it harder. high school, you were swinging in my gym. Yeah. Ed eccoci qui, tornati in diretta sempre su Radio Panorama. Mi sorride il regista. Ti sorrido mentre affogo. Mi fa pensare a una canzone di Caparezza. Sono le 19.37 e come preannunciato abbiamo qui l'onore di avere già in diretta, giusto? È in diretta al telefono il carissimo Capone. Ciao e benvenuto. Ciao ragazzi, come state? Ah, bellissimo, noi di solito chiediamo, invece tu ci hai preceduti. Stiamo bene, tu come stai? Bene. Perfetto, perfetto. Ma sembra che parli tipo da qua dietro. Ora spunti la prima porta, beh, ora apro la porta e dentro. Cioè non lo so, sembra un po' così dalla voce come arriva qui. Allora, io qui davanti ho un bel po' di notizie sparse però dico, c'è tanta carne al fuoco. Magari metti un po' d'ordine tu. Da dove vuoi cominciare, dall'inizio o dalla fine della vostra, della tua esperienza, da quello che hai fatto sinora, diciamo, a cominciare dall'84 circa, se non sbaglio, fino ad arrivare ad oggi? Vabbè, facciamo un riassunto così. Un bel riassunto, dai. All'attualità. Sì. Vabbè, diciamo che la cosa parte un po' di anni fa, quindi appunto 82. 82 per l'esatto, quindi 30 anni fa. Esattamente, 30 anni. Con sì. Una band rock che della quale sono stato, insomma, fondatore, anche chiaramente musicista. I 666, che era una band della Vesu Wave, di quell'area rock italiana che poi ha generato tante buone cose come Litfiba, come De Novo, Avion Travel, l'area napoletana, sì, chiaramente. Poi da lì, diciamo, una decina d'anni di questa band che abbiamo, insomma, con la quale abbiamo fatto tante cose belle, e poi sono partito col mio progetto personale negli anni 90, utilizzando campionamenti, facendo drum and bass, diciamo reggae, drum and bass, un genere abbastanza equatoriale, io lo sì. definirei. Bella come definizione, sì sì, bella, questa è una bella definizione, devo dire. E quindi niente, in quegli anni ho cominciato a sviluppare anche questa capacità di campionare cose strane, perché mi campionavo, invece di mettere la cassa e la batteria, mettevo la custodia della cassa e facevo le cose al contrario. Fantastico, capito? Cioè così ti è venuta proprio perché hai detto vediamo, proviamo, dico. Sì, diciamo che io, insomma, il mio strumento guida è la percussione, poi chiaramente sono cantante, scrivo canzoni, però fondamentalmente ho questo rapporto viscerale col tamburo che mi permette, a me come tanti altri musicisti percussionisti, di manipolare la materia, no? Perché noi siamo abituati a toccare, siamo abituati a pensare che qualunque cosa si può tamburellare, qualunque cosa può essere percossa, e quindi da lì è partito poi questa ricerca sugli oggetti, che nel 99 è diventato poi Capone Bunghe de Banghe, quindi un progetto ben definito e anche sì. un po' integralista, nel senso che suoniamo solo ed esclusivamente strumenti fatti con materiali riciclati. Questa cosa è legata pure, insomma, a un mio spirito animalesco, che è quello, insomma, più che da ecologista sicuramente mi sento più un animale. Proprio selvaggio. Selvaggio, bravo. Quindi, insomma, la raccolta dei rifiuti intesi anche come possibilità di riciclo anche dove non te l'aspetti, diciamo, come in questo caso. Esatto. per suonare. Ti dirò di più, il riutilizzo, perché la cosa sostanziale, la grande differenza rispetto a quello che può essere il lavoro, diciamo, di differenziare, che comunque è altrettanto importante, però noi, insomma, cerchiamo di non farla andare proprio la roba nella spazzatura, quindi la pigliamo prima sì. e la facciamo diventare efficientissima strumentazione musicale, come poi si può sentire dai pezzi, e perché poi così è, cioè nel senso che noi siamo anche acustici, suoniamo bidoni elastici. E io ho visto anche lo scratch fatto con la scheda telefonica. Ci vuole lo scratch, no, con le figurine, sai, quelle là che cambiano. Ah sì, quelle che dipende sì. l'angolo in cui le giri. Bravo, quelle esatto. rigge, sì. Quelle sì, là sì. sono un grande scratcher. Sì, ma ancora il mio regista qui raccoglie i soldi nel salvatanaio per comprarle. Ancora lui è un fan alla sua veranda età. Sì, esatto. Beh, sì, quelle di Yu-Gi-Oh! Ormai con i giorni moderni. Senti, ma qua leggo che un grande incontro è stato quello con il maestro Pino Daniele. Eh sì, quello, diciamo, fa parte della storia, appunto, degli anni Ottanta. Capo, c'è Song K Radio, come stai? Cioè, bello, tu, non ci vediamo un sacco di tempo, volevo sentirti. Con la scusa non ci vediamo. È parecchio, ma se scendi in Sicilia fai un bello weekend insieme, mi trovo bene qua. Eh infatti mo ci facciamo un bagnetto insieme, devo venire assolutamente. Vabbè, allora ti aspetto che andiamo insieme, vabbè, ciao. Non ti muovere. Sì, sì, ogni tanto vedi lui passa così, passa, si trova Daniele. Sì, improvvisamente ti meno saluta. Meno male, perché comunque è un grande personaggio. È un grande, assolutamente. E poi arriviamo anche a parlare di Sanremo, perché possiamo dirlo che quando nel 2007 avete duettato con Daniele Silvestri nella da me ritenuta mitica Paranza, ancora uno dei pochi brani di Sanremo degli ultimi anni che ho costantemente nel mio iPod e che ascolto, avete fatto il boom con quel duetto meraviglioso che è stato super visto da YouTube e da tutti i canali possibili. Sì, sì, è stata una cosa divertente, anche perché ci siamo fatti veramente un sacco di risate, perché chiaramente noi siamo arrivati a Sanremo, insomma, che sapete perfettamente che insomma è una kermesse, sì, floreale, super istituzionale, proprio super che più non si può, sì, c'è solo il Vaticano, credo. Bravo, sopra Sanremo. Sopra, vieni di Monnezza, sì. Di scusate, ma a Monnezza magari pensavano che eravate tipo, che so, i facchini, invece niente, voi eravate lì per suonare. Operatori ecologici, esatto. Oppure magari in Bianchini, sai, perché poi tra queste due aree qua ci si può confondere con tutte le cose, sì, che abbiamo noi. Cioè, quindi è stata un'esperienza proprio mescolarsi a un mondo che invece è canonico, invece voi avete portato la vostra follia, la vostra selvaggia e fantastica follia, insomma. Esattamente. Poi non lo so se tu l'hai visto quella performance. Sì, noi ballavamo, come, assolutamente. Una specie di balletto, alla fine ci tiravamo di schiena. Sì. Allora, il nostro progetto era quello di farci trovare in boxer quando ci giravamo di schiena. Anche con le chiappe all'aria sarebbe no, stato vabbè, interessante. No, non esageriamo, però no, insomma, comunque una piccola provocazione, ma ironica, chiaramente divertente. E vabbè, insomma, se potevo fare. Ovviamente vi hanno detto, se lo fate siete banditi dal territorio italiano. Immagino tipo i direttori. Chi era il direttore artistico quell'anno? Dunque, aspetta, Pippo Baudo. Ah, no, c'era Pippo Baudo. C'era Pippo Baudo, sempre in campo. Il nostro paesano. Sì, proprio... sì, sì. Lui è, viene da Citrezza. No, no, Citrezza, no, cos'è? È palermitano. No, no, zona, zona Catania, zona Catania. Lui è di, non mi ricordo. Ah, è catanese. Neanche io. È tipo Val di qualcosa. La dico. Vabbè, figuriamoci. Vabbè, niente. Senti, Maurizio, i Book the Bank oggi, perché voi siete usciti, avete fatto il nuovo singolo che è una cover dei Daft Punk, che è Around the World. Come mai la scelta proprio di questo pezzo? Ma perché guarda, è stata una cosa abbastanza interessante come percorso, perché allora vabbè, noi chiaramente facciamo fondamentalmente brani inediti e tutto, però poi ogni tanto nel tempo c'è sempre venuto questo desiderio di sperimentarci su, diciamo, con delle cover, con dei brani di altri, perché comunque è anche un modo per confrontarsi, no? È quasi come mettere un attimo i piedi a terra e dire vabbè, proviamo a confrontarci con qualcosa di grande, perché poi in particolare Round World è un pezzo proprio esagerato, enorme, e quindi anche di rischiare, no? Di provare a rischiare non solo sulla tua pelle, ma poveretti, pure sulla pelle degli altri, in queste case di Daft Punk. In realtà è stato molto divertente, perché è venuto fuori molto molto spontaneamente il pezzo. Poi e tra l'altro il sound è quasi identico, diciamo, a quello del pezzo. Io ho sentito un'altra cover che era quella dei Tre Re Ragazzi Morti, il pezzo è stato italianizzato lì, ma qui invece l'avete mantenuto praticamente identico, e il sound con i vostri strumenti è, diciamo, abbastanza simile a quello del pezzo originale di Daft Punk. Beh, noi siamo molto elettronici nonostante siamo acustici, quindi in realtà c'è un'affinità anche a monte, no? Perché noi, i nostri strumenti provengono dal ciclo industriale, quindi hanno dentro tutta la catena di montaggio per costruirli, per cui quando la scelta anche di un brano comunque dell'area dance, dell'area elettronica, era anche proprio quello di, come dire, contaminare quella cosa, però con una certa acusticità più data dal fatto che suoniamo dal vivo queste cose e non solo da un punto di vista acustico, che invece secondo me mantiene quell'approccio un po' elettronico, anche se appunto è tutto suonato, quindi non c'è niente di elettronico, però sai, era proprio questo accostamento che ci piaceva, cioè l'idea che comunque una canzone elettronica fosse poi suonata acustica, però con delle sonorità che noi riteniamo essere assolutamente competitive con quelle elettroniche, e quindi questo è stato un po' l'esperimento. Senti una domanda, così prima di chiudere e salutarci, anche come saluto, dirci quali sono i progetti futuri in pillole. Tu, visto quello che fai, insomma, abbiamo detto bene, quello che utilizzi un po' tutto per poter suonare e fare musica, ma sei anche bravo come rumorista con la voce, perché a noi piacerebbe se tu ci facessi così un regalo per noi dell'Onda in Onda e Radio Panorama, così anche una cosa così veloce con la bocca, qualcosa da rumorista. Ma certo, vi posso fare un bel assolo percussivo. Va bene, guarda, noi togliamo il sottofondo, appena ti do il via vai, 3, 2, 1, vai Capone. tu come lo fai, tu come lo fai, questa è la tua terra, dimmi tu come lo fai, tu come lo fai, tu come lo fai, anche una formica vede tu come lo fai, placa tu cum cum, ragazzi, qua ci sta l'applauso, applauso, applauso per Maurizio Capone, questa me la devo ovviamente il pubblico campionare. Non applaude, perché il pubblico non applaude? Pubblico, ma il pubblico era distratto, no, no, ma infatti il pubblico, il nostro pubblico verrà punito. Ecco, ecco, mo è arrivato l'applauso. Sei punito con una multa. Assolutamente, lo facciamo picchiare proprio da Pino, Daniele, visto che ti difende, che è qua. Io direi di prendersi la prima con il regista. Sì, sì, sì, Pino, io ogni tanto sembro buono, però... Senti una cosa, progetti futuri in pillole, velocemente? Progetti futuri sono, diciamo, un po' di televisione, che un periodo di tempo che Rai 3 praticamente ci ha accolti, non ho capito poi che è successo, ma stiamo continuamente... Non si sa... Per esempio, ora stiamo girando un documentario di Rai 3, che comunque di Rai Edu, che girerà tutta Europa e tutto il Mediterraneo. Ah, fantastico. Poi siamo stati ospiti di Geo la settimana scorsa e saremo ospiti il 24 dicembre, quindi se ci siete accendete la TV, perché il 24 dicembre... Io verrò proprio a fare il cenone di Natale nello studio. Ma non so se ci arrivate, perché il 21 finisce il mondo. Infatti noi il 20 dicembre... Sì. E il 20 dicembre noi facciamo la puntata speciale, vabbè, infatti per la fine del mondo. L'abbiamo già registrata. Allora, anche se la vedremo nell'aldilà, è già pronta. Capito, non c'è problema. Va bene, Capone, noi ti ringraziamo infinitamente per la disponibilità e la simpatia. Ma e adesso ci va bene, allora ti salutiamo. Grazie per essere stato con noi. E adesso ci ascoltiamo un pezzo proprio dei Bunk the Bunk, Capone, Around the World. I Bunk the Bunk con Around the World, cover dei Daft Punk. Tra l'altro Capone intervistato poco prima da noi, perché si fosse collegato solo adesso. Non ci dimentichiamo di salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci sopportano, tra cui tanti amici come Vivi, l'altra Vivi, tanti ragazzi che ci ascoltano un po' da tutto il mondo. E sempre Vara. Vara Menier, che ci ascolta sempre. Senza polemica. Anche Amelia, anche Giorgia, un po' tutti. Va bene, allora continuiamo la nostra rassegna dei lavori più strani del mondo, interrotta la settimana scorsa col sesto posto. Quindi per chi se la fosse persa, persa, vi consigliamo di andarsi ad ascoltare la puntata precedente, ma invece continuiamo con la classifica. Dal quinto posto, nei lavori più strani del mondo, c'è gli addetti alla rimozione di carcasse. Sulle nostre strade può capitare al massimo di incrociare qualche povero cagnolino abbandonato o randaggio, al massimo in montagna una mucca può ostruire il passaggio, ma avete mai pensato a posti dove puoi ritrovarti davanti a un alce, un canguro, un cavallo? Ecco, qui intervengono gli addetti alla rimozione delle carcasse di animali della strada. E soprattutto, parlando di animali della strada, ricordiamo che, come abbiamo annunciato nell'anteprima, subito dopo il pezzo che metteremo dopo questa classifica, sarà con noi in intervista Laura Muriella, che si occupa del canile municipale di Termini Imerese e vuole dire la sua sulla situazione del canile a Termini. Sarà un intervento importante, quindi non vi scollegate mai dall'Onda in Onda. Esatto. Al quarto posto, Andrea, cosa abbiamo? Pulitori di fogne e fosse biologiche. Io ti ci vedrei bene. Quando un tubo di scarico si intasa o le fosse biologiche non funzionano a dovere, noi siamo abituati a chiamare le famose ditte di spurgo. Ma ci sono paesi dove questo lavoro si svolge alla vecchia maniera, scendendo all'interno delle fogne e lavorando manualmente. Vi risparmiamo altri dettagli. Ma... telefonista a luci rosse al terzo posto nel podio. Vi siete mai chiesti chi ci sia dall'altro capo della cornetta? Quasi sarebbe facile rispondere. Attenzione, abbiamo sempre la nostra ragazza. Ecco, quando si chiamano i famosi numeri per adulti? Semplici impiegati che lavorano da mezzanotte alle 6 del mattino, che hanno la loro bella postazione con telefono e tanto di guida alle frasi che gli uomini desiderano sentirsi dire. Un call center ancora più squallido. Insomma, poi vorrei capire perché dice semplici impiegati e non impiegate. Ma dico, non vabbè. Si sa, però vi invito a vedere il video degli Aerosmith su With Emotion, sì? Dove c'è appunto il video dove c'è girato? No, ma c'è nel video, diciamo, la storia di questo ragazzo che chiama al telefono erotico, però poi alla fine del video si scopre che in realtà è una casalinga un po' accippata che stira col però bambino. Magari ha la voce bellissima, infatti lui sogna questa donna magnifica che in realtà non esiste. Il secondo posto dillo con molta grazia, perché ricordati che sono le 19:53. certo. Ovviamente parliamo dell'esaminatore di sperma. Per questo ci vuole anche una laurea e una specializzazione. Lasciamo la parola a chi l'ha vissuto. Tutti i giorni esamino più o meno 400 campioni di sperma per diagnosi varie. A parte la cultura che è già abbastanza disgustosa, l'esame che più detesto è l'analisi del seme. Risucchio tutto con una pipetta e lo risputo più volte nel contenitore. L'odore che ne esce è nauseabondo. Mamma mia. E invece al primo posto. E qua ci vuole attenzione! L'allevatore di larve. Consiste nell'indossare una tuta e degli stivaloni, accomodarsi all'interno di una vasca enorme, ripiena di carcasse marcescenti di animali e pesci, e girare ogni tanto con il badile le larve. Va bene, e questi erano i 10 lavori più strani del mondo. Sì, noi ma anche i segnali. Anche i segnali più strani del mondo. I segnali stradali, ci sono tante cose strane nel mondo. Va bene, noi ci ascoltiamo adesso, direi, un pezzo prima di ascoltare Laura. Lo lanci tu? Pseudo Echo Funky Town. Time to keep it moving. ore 20 in punto. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Siamo ancora qui, sempre con L'Onda in Onda, sempre su Radio Panorama. Sono le 20.03, o che per chi ascolta di notte, 1:33. Prima di dare la parola a Laura, volevo dirvi una notizia importante che oggi ho scoperto insieme al mio amico Giorgio. Capitan Findus, il primo Capitan Findus, l'ho letto, Giovanni Cattaneo, praticamente vuole essere campato da qualcuno perché è ridotto in miseria. Vive solo col suo cane. Vive solo col suo cane. C'è una serie di foto di lui e il suo cane in bagno, lui e il suo cane sotto la doccia, lui e il suo cane mangiano, e praticamente non lo so, dice non è possibile, commentava Repubblica.it che un simbolo così importante della pubblicità italiana si è ridotto così, poveraccio, noi gli esprimiamo la nostra solidarietà, sì, infatti, gli porteremo dei bastoncini in serata, non so, vediamo. Ma magari la Findus testa adesso lo aiuterà. Sì, la Findus stessa, cioè, era da un'ora che non le sparava, puoi aggiungere stessa all'elenco. Una fomelica contro la fomelica contro cosa? La Findus. Contro la Findus. Comunque contro il farso dei nostri tempi, non lo starzo. Va bene, abbiamo detto un bel po' di paccate. Adesso invece la parola ad Andrea, che introdurrà Laura. Quindi prego, Andrea. Sì, allora no, per chi ci ha ascoltato nell'anteprima già conosce l'argomento. Diciamo che abbiamo con noi Laura Muriella, che è presidente della Guardia Ambientale di Termini Imerese, vuole parlarci dello stato del canile municipale a Termini e del randagismo nella città. Benvenuta Laura. Buonasera a tutti. Allora, spiegaci un pochettino perché ci hai chiesto di intervenire nel nostro programma. Allora, volevo un po' parlare di quella che è la situazione a Termini, del randagismo e il canile municipale, e il lavoro che comunque noi facciamo giornalmente in collaborazione con il comune, con l'amministrazione e anche con le ASL. Allora, innanzitutto, per chi non conosce le guardie ambientali, diciamo che allora, le guardie ambientali si sono costituite il 28 dicembre dello scorso anno e già in quasi 11 mesi di lavoro siamo riusciti ad avere un bel curriculum, nel senso che comunque abbiamo fatto tantissimi interventi, abbiamo curato la situazione dei randaggi a 360 gradi e da subito abbiamo fatto un censimento sulla città. Quindi abbiamo praticamente censito i cani, visti quanti erano presenti, maschi, femmine, cucciolate. Ci siamo fatti carico delle cucciolate e di fatto abbiamo comunque registrato 153 adozioni, che in un anno penso che non siano male. Diciamo che abbiamo tolto 153 cani dalla strada e regalato loro una famiglia, cioè trovato loro una famiglia, cioè è un benessere per tutta la comunità, per loro, ma anche per chi, insomma, il randagismo sa che può essere un problema. A doppio senso, dico, sia per i cittadini che per i cani stessi. Però diciamolo, perché molte persone, io parlando, so che questo argomento lo conoscono poco. Cioè, i cani randaggi che vediamo adesso a Termini sono controllati, cioè non sono randaggi e basta, cioè non sono randaggi che non hanno le vaccinazioni o non sono per nulla controllati. Da quel che so io invece sono seguiti. Sì, sì, sono seguiti sia da noi che da parecchie persone animalisti che comunque si prendono la briga la sera di raggiungere questi cani, dargli da mangiare, curarli, se è il caso portarli anche dal veterinario. Diciamo che siamo comunque coadiuvati nelle nostre attività dalla presenza di animalisti e riscontro con molto piacere che negli ultimi anni aumentano. E quindi anche i randaggi dobbiamo comunque togliere, ecco, abolire l'idea che il randaggio è un cane malato, un cane aggressivo, un cane che può contrarre malattie. Il randaggio è definito per legge un cittadino a tutti gli effetti, quindi un cane ha diritto di girovagare per la città, viene curato, assistito sia da noi, come ripeto, che dagli animalisti, e come tale deve essere rispettato. Esatto, tra l'altro ricordiamo ci sono stati casi spiacevoli in cui i randaggi sono stati in realtà soppressi. Io ricordo il fu Giorgio che veniva sempre in zona della Movida, diciamo, era uno della Movida Termitana, sì. Era un po' di tutti, il cane di tutti. Tra l'altro non veramente, per lui vale il detto, non faceva male a una mosca, sì. Cioè si avvicinava soltanto, neanche abbaiava, neanche abbaiava, era muto, cercava, sì, cercava carezze, anche qualcuno che gli curasse il sordomutismo, no? Scherzi a parte, veramente un cane che non creava alcun fastidio, che comunque non sarebbe stata una giustificazione per una morte così violenta e atroce, perché le morti per avvelenamento sono atroci, cioè i cani hanno emorragie interne, hanno sofferenze indicibili, quindi comunque sarebbe stata da condannare, a maggior ragione se il cane non creava alcun problema. Abbiamo vissuto dei momenti terribili sia nel mese di febbraio che nello scorso settembre. Ci siamo ritrovati ad assistere cani agonizzanti a qualsiasi ora del giorno o della notte. Per molti, per fortuna, c'è stata una possibilità di vita. Adesso i cani sono stati rimessi in territorio e sono dei cani felici. Per altri, come Giorgio o tantissimi altri che sono morti nel mese di febbraio, non c'è stata proprio speranza, perché comunque chi ha preparato, diciamo, la polpettina per il cane l'ha fatta a dovere, devo dire. Beh, diciamo che voleva colpire sicuramente con uno scopo. Da queste vicende so che è stata fatta un'ordinanza del sindaco molto discussa. Vuoi spiegarcela tu? Sì, l'ordinanza Fama Cani. Si è discusso tantissimo su questa ordinanza. È nata per esigenze, più che altro per tutelare sia i cani che i cittadini che abitano nelle zone del Torracchio. In quella zona lì si erano radunati circa 18 cani. Già 18 cani formano branco. Per cui sia le mamme che accompagnavano i bambini a scuola, che comunque i residenti, hanno esposto diverse denunce al sindaco. Quindi il sindaco giustamente si è sentito nella posizione di trovare una soluzione a questo problema. Ne abbiamo parlato diverse volte e allora si è raggiunti alla conclusione di fare questa ordinanza, che era vietato dare da mangiare ai cani nei pressi della scuola, quindi a 100 metri dalla scuola e non in tutta la città, così come era stato inteso o scritto sui giornali. Esatto, perché nei social network soprattutto e nei giornali in realtà l'estratto era che l'ordinanza vietava di dar totalmente mangiare ai cani randaggi. Cioè, non c'erano distinguo per zone, cioè totalmente. Assolutamente. Diciamo quindi, che dico, voi delle guardie ambientali giudicate questa ordinanza un'ordinanza positiva. È positiva perché è servita a difendere i cani, perché sicuramente in quella zona lì i cani sarebbero morti, sarebbero stati anche vittime di avvelenamenti, così come Giorgio e così come tanti altri che hanno lì lasciato la loro vita. Quindi adesso abbiamo lavorato a fianco al sindaco, il quale, devo essere sincera, in tema di animali, quando deve decidere qualcosa prima contatta le guardie ambientali e poi decide. Abbiamo pensato subito intanto di sterilizzare le femmine, già le abbiamo fatte, stiamo castrando i maschi, alcuni di loro sono stati allontanati, sono ospiti presso il rifugio delle guardie ambientali e siamo in attesa di adozione. Stiamo lavorando per darli in adozione piuttosto che rimetterli in territorio, almeno gli regaliamo una vita piuttosto che metterli a rischio di morte. Esatto, quindi facciamo un appello ai nostri ascoltatori, chi volesse e avesse le intenzioni, soprattutto magari in periodo natalizio, di acquistare un invece cane, di andare a cercare il cane di razza da 1.500-2.000 euro più, invece potete fare un'ottima azione prendendo uno dei cuccioli, appunto adottando uno di questi cuccioli. Come possono fare, Laura, per mettersi in contatto con voi? Allora, innanzitutto voglio ricordare che un'adozione, soprattutto in questi casi, un'adozione del cuore è anche un atto di responsabilità. Quindi non dobbiamo prendere un cane solo perché mio figlio, ad esempio, piange e lo vuole, ma lo dobbiamo prendere con la responsabilità che il cane è anche un essere vivente. E chi decide di adottare un cane può contattare le guardie ambientali. Potete contattarci su Facebook alla pagina Guardie Ambientali Ispettorato Regione Sicilia e potete contattare anche al mio numero personale 327 12 8 5000. Dovrei darvi anche i numeri dei miei colleghi. Lo scriveremo sicuramente nella pagina, nella nostra pagina Facebook. Esatto, che magari riescono a prendere. Sì, lasceremo i contatti, sì, così chi è interessato può trovarli lì, perché magari adesso non hanno neanche carta e penna lì a disposizione. Sì. Quindi andate sulla pagina dell'Onda in Onda, già stasera, anche adesso tra qualche minuto, troverete i contatti di Laura e degli altri ragazzi, colleghi della Guardia Ambientale, ai quali potete rivolgervi se siete interessati all'adozione di un cucciolo. Va bene Laura, se non hai altro da aggiungere, non so. Penso che il problema del randagismo è un problema che tocca a tutti e che possiamo risolvere tutti assieme. Quindi chiedo ai cittadini di essere molto più aperti nei confronti degli animali in genere e comunque possiamo risolverlo collaborando. Cioè noi ci occupiamo della salute e del benessere dell'animale, il cittadino dall'altro lato può semplicemente adottarlo e regalargli una vita. Va bene, allora noi ti ringraziamo per il tuo intervento, Laura, e insomma continueremo ad occuparci di questa vicenda. Soprattutto, insomma, abbiamo fatto vedere che non siamo un programma per nulla fazioso, abbiamo anzi fatto i complimenti al nostro sindaco che ha fatto un'ordinanza buona. Noi quando c'è da criticare critichiamo, quando c'è da criticare positivamente facciamo altrettanto. Va bene, restate con noi. I wanna jam it with you. We're jamming. We're jamming, jamming, jamming, credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E facciamo un benvenuto a Marco. Ciao, come stai? Ciao, grandissimi, io tutto bene, voi? Benissimo, ridevamo perché facciamo un benvenuto è uno di quei neologismi che inventa facciamo Andrea. Facciamo un benvenuto. No, perché guarda, oggi Andrea ha inventato diversi termini, voglio che tu lo sappia, perché ormai sei della famiglia. Marco ci ha ascoltato. Allora, in bocca al lupa, non sia perché oggi gli andava a dare le quote rosa, e poi c'è molto farzo invece di sfarzo, e c'è qualcosa che ha fatto faceli invece di sfaceli. Lui oggi amava iniziare con la F, boh, non si sa il perché. Marco, come va? Come va? Come va? Ma guarda, la voglia di punizione è sempre in incremento, quindi tra l'altro manca esattamente un mese alla fine del mondo. Ricordiamo che il 20, la sera prima, alle 22, ci sarà una puntata specialissima, l'ultima ovviamente nella storia del mondo e dell'Onda in Onda, e ci sarà con noi ovviamente Marco, che ci proporrà una carrellata di film brutti, quindi non mancate il 20 dicembre alle 22. Allora Marco, questa settimana come ci dobbiamo autopunire? Allora, veramente un film incredibile che si chiama Robot Holocaust, che diciamo un po' si inserisce diciamo nella scia dei film Holocaust, no? Cannibal Holocaust, porno Holocaust. Guarda, e allora io devo fare solo una premessa, Marco. Cannibal Holocaust secondo me è un capolavorone. No, quello, guarda, quello è sicuramente uno dei film più grandi che siano mai stati girati, infatti. Campeggia nella nostra sezione Scalp, diciamo, sì, come uno dei film più interessanti di sempre. Mentre detto, Robot Holocaust è praticamente un film girato, penso, tipo come se fosse tipo la recita di fine anno, no? Di fine anno scolastico, sì. Veramente un film poverissimo, ma ricco di idee, perché diciamo abbiamo un classico scenario post-atomico nel quale la Terra è stata devastata dalle radiazioni atomiche, e il padrone dell'atmosfera respirabile è questo malvagio Dog One che sottomette tutti gli esseri umani che sono ormai diventati diciamo i giocattoli dei robot, e quindi abbiamo un mondo dominato dalle macchine, e penso che vi state già ricordando un film ben più recente di questo Robot Holocaust, e quando vi darò il nome del protagonista, che è Neo, penso che non potrete... Addirittura Matrix! Esattamente! Diciamo che questo Robot Holocaust potrebbe essere stato visto in segreto tra fratelli Wachowski durante la... Perché? Qual è il particolare che lo... lo affina da Matrix? Perché praticamente anche qui abbiamo questo Neo che è il salvatore, diciamo, dell'umanità, di quei pochi umani che devono ribellarsi alle macchine, e con una manica di scalcinati, un barbaro semidemente, un nano brutto e qualche altro cialtrone raccattato per strada. Un barbaro semidemente e un nano brutto. No, erano bellissimi gli aggettivi dei personaggi. praticamente hanno il compito di sconfiggere questo Dark One o Dog One, a seconda diciamo se della versione italiana o inglese, e chiaramente si riuscirà in un susseguirsi di scene completamente sconclusionate, poi realizzate proprio veramente male. Cioè, cito la scena in cui i nostri eroi si introducono in una grotta che dovrebbe essere popolata da dei vermi diciamo mutanti, che sono realizzati praticamente con dei guanti che sbucano dal muro, mossi chiaramente dalla mano di quello che sta dietro, no? Che, un po' come Dodo dell'albero azzurro. Esattamente, il concetto è quello. Ma poi ci sono altre scene bellissime, tipo la lotta con il robot, con Talk, che è il robot, diciamo il tirapiedi di Dog One, che è praticamente un coso di cartapesta, cioè veramente, veramente bruttissimo, e poi anche la scena del disinnesco della bomba è veramente bella, perché praticamente il barbaro semidemente praticamente tocca tutti i fili, quindi dovrebbe esplodere tutto, ma poi diciamo non esplode nulla, quindi diciamo proprio l'esatto contrario di come si disinnesca una bomba nei film, no? Quindi si sta attenti nel film, no, questo tocca tutto alla fine. non scoppia niente, perché tanto va bene così, insomma. Un vero disastro. Senti, ma un l'idea su tutta la linea, veramente. L'idea, secondo me, di questo film, non pensi che l'abbia ripresa Verhoeven nel fare Atto di Forza? Cioè l'idea di vendere l'aria, lui vendeva l'aria su Marte. Ma il diritto sull'area di Marte. Effettivamente possiamo trovare anche questo tipo di aggancio. Io non ricordavo, cioè, se ci mettiamo anche a disquisire sui film brutti e no, però, capito, è il film brutto. È brutto perché magari il regista che lo vede si autopunisce, poi magari gli scatta l'idea per un bel film come Atto di Forza. Esatto. Un film peccato molto riuscito. Mentre qui abbiamo, diciamo, proprio uno dei punti più bassi come realizzazione, veramente, a partire proprio dai costumi dei personaggi, sono proprio realizzati tipo con quelle che hai in soffitta, proprio stracci presi e messi lì addosso alla gente per farli recitare, insomma veramente incredibile. Abbastanza brutto come film. Vedo che date voto 4 nel vostro sito. Come sì, assolutamente, del perché è veramente brutto. Sì, è esilarante nella sua bruttezza, cioè la bruttezza che fa ridere, insomma, che veramente ti coinvolge e ti fa vivere proprio dei momenti di punizione esaltanti. Veramente. Tra l'altro, voi lo consigliate ai fan del Posto Atomico e agli amici di Star Wars. Oggi noi abbiamo intervistato Angelo Licata, che ha fatto un fan movie su Star Wars, e quindi calza a pennello anche a questo film. Assolutamente. Senti, ma con cosa lo mangiamo? Questo sì. Film? Allora, secondo me questo è il film giusto per mangiarlo con per vederlo mangiando il cavo elettrico. Come il cavo elettrico? Che è praticamente uno snack dal sapore non ben definito, non so dirvi, non abbiamo saputo catalogarlo né fra i dolci né fra i salati. È praticamente uno snack fatto proprio a filo elettrico, con tanto di guaina. Esiste uno snack che si chiama filo elettrico. Ma non è la liquirizia, quello con lo zucchero dentro? No, è proprio un cavo elettrico, proprio, cioè nel senso, è fatto proprio a cavo elettrico. Cioè, in realtà poi non ha nemmeno un nome, perché è stato trovato, diciamo così, in funzione sciolta, non confezionato. Quindi, diciamo, non saprei nemmeno dirvi, diciamo, il nome del prodotto, perché infatti non lo riusciamo a trovare come dolce cavo elettrico su Google. Stiamo cercando di googolare, ma dolce cavo elettrico sembra quasi il titolo di un film post il dolce cavo elettrico, sì, post cyberpunk, sì. Ma infatti, se guardate la nostra sezione Trash Snack, vedete una foto molto esplicativa di questo cavo con tanto di tronchesina accanto. Mamma mia. Allora, questo è proprio l'autopunizione. È uno snack dolce o salato? No, è indefinito. È indefinibile. Il cavoletto. Non è possibile assolutamente catalogarlo né dolce né salato. Guaina isolante di gomma arabica. Io invito tutti ad andare a vedere la foto, la posteremo, è veramente incredibile. Marco, noi ti ringraziamo sempre enormemente. Intanto grazie, c'è il regista che si palpa le tette, non so perché. Ti ringraziamo e adesso ci ascoltiamo un altro pezzo. È il turno di Ocean con Endless Summer. Ma mentre Antonio canta In the Summer. Sì, sì, io avevo sempre capito che si chiamasse In This Summer quando l'ascoltavo, vero? Perché In la puoi ascoltare solo quest'estate, poi basta. Che poi è finita, cioè sì, no, era la canzone degli europei, però vabbè. Niente. Non era degli europei? Sì, sì, era la canzone degli europei. Il nostro regista annuisce. Va bene, allora, vi ringraziamo per essere stati con noi. Siamo ai saluti finali. Ovviamente, e quindi... anche durante la settimana, se potete e volete, fatevi sentire sul profilo facebook.com/londainonda oppure su twitter.com/ondainonda. Esatto, e continuate a rimanere su Radio Panorama perché dopo ci sarà Carta Straccia. E mi raccomando, domani con i ragazzi di Positive Vibration. A che ora? Domani c'è Mellow Mood? Sì, ah, Mellow Mood. Sì, Mellow sì, Mood. Sì. Ti ricordi quando... Dalle 22, se non sbaglio? Dalle 21:30. 21:30. 23:30. E 30, ovviamente. Quindi anche loro 2 ore di programma. Domani un bel programma sul reggae. E allora, ragazzi, grazie per esserci stati anche oggi. Salutiamo Giorgio, che è stato in studio con noi, e anche Serena, tutti gli ospiti che ci hanno fatto compagnia al telefono. E Marco, che ci ha ascoltato tutta la puntata. Marco e gli ospiti che abbiamo avuto qui con noi, Capone, Bung the Bunks. Salutiamo Angelo Licata. Esatto, salutiamo Roberta da Napoli e tutti gli altri che ci hanno ascoltato. E ragazzi, lui era Andrea, lui era Antonio. E lì dal dietro il vetro c'era anche Brumma. Ciao!